GR24, il sole 24 ore. L'Europa e la tenuta dell'euro, parla la Merkel. In Italia sta di BTP con rendimenti in crescita, collocato tutto l'ammontare. La Nokia annuncia licenziamenti, Samsung invece vuole far partire la concorrenza a Facebook. Si torna a parlare di ciclismo e doping, questa volta il nome è quello di Armstrong. Buongiorno dalla redazione, da Adriana Fracchia. I segnali di tensione e la ricerca di soluzioni sul fronte europeo oggi si rincorrono, partendo dalle dichiarazioni della cancelliera Merkel sull'euro. Poi i dati della BCE, la disoccupazione in crescita in Grecia e in Italia l'andamento della nuova asta dei BTP. E poi gli incontri tra leader europei. Per dare il quadro della giornata partiamo proprio dalle dichiarazioni di Angela Merkel di oggi. Beda Romano, buongiorno. Buongiorno. Ecco, allora, quali commenti dopo queste dichiarazioni? La signora Merkel si è espressa questa mattina al Bundestag, prima di andare al G20 messicano che si svolge fra qualche giorno, e prima di tutto mi sembra ha lanciato un messaggio interessante ai francesi. Ha detto che è importante che la Banca Centrale Europea abbia più poteri di sorveglianza bancaria sugli istituti di credito europei. Non è una mossa banale quella della signora Merkel, perché sappiamo che uno degli aspetti in discussione oggi è proprio l'idea di una unione bancaria, e un'unione bancaria riposerebbe su tre pilastri: la garanzia dei depositi in solido, dei fondi di gestione delle crisi bancarie, anche questi in solido, e poi una sorveglianza che non sia più a livello nazionale ma che sia a livello europeo. I francesi sembrano d'accordo, i tedeschi fanno capire che lo sono anche loro, e quindi mi sembra che l'unione bancaria sia in questo momento una delle possibilità più concrete di esito del prossimo vertice europeo che si svolge alla fine di giugno. Bene, grazie a Beda Romano. E poi c'è l'avvertimento della Banca Centrale Europea sui conti dell'Eurozona: più rischi per la ripresa, peggiora la disoccupazione e la situazione del mercato del lavoro. La crescita economica dell'Eurozona, secondo il bollettino di giugno della BCE, resta infatti debole e soggetta a maggiori rischi al ribasso, in particolare un ulteriore acuirsi delle tensioni in diversi mercati finanziari. Arriva intanto dalla Grecia, due giorni dalle elezioni, un nuovo dato sulla disoccupazione che è al 22,6% nel primo trimestre dell'anno. E tra le preoccupazioni c'è la fuga dalle banche, che non riguarda soltanto la Grecia. Massiccia da una parte, più debole ma consistente dall'altra. La fuga dei capitali e il ritiro del denaro dai conti correnti sta riguardando in maniera diversa Grecia e Spagna. Nella prima, riferisce un banchiere al Wall Street Journal, l'approssimarsi delle elezioni sta accelerando il processo. La cifra oscilla tra i 600 e i 900 milioni al giorno. Il 16% dei depositi bancari ha preso il volo tra marzo dell'anno scorso e marzo di quest'anno. È facile immaginare che dopo il voto il processo abbia subito un'accelerazione. In Spagna si parla del 4-5%. La situazione appare più tranquilla nel nostro paese, dove invece l'incremento dei depositi è cresciuto, secondo i dati ufficiali, del 2%. E però c'è un altro dato sul quale riflettere. Fino al dicembre dell'anno scorso, e questi sono dati della Banca d'Italia, da conti correnti italiani erano stati trasferiti all'estero 200 miliardi. La cifra, e qua siamo su dati meno ufficiali, sarebbe arrivata a 274. Il punto sono anche le attività finanziarie. Gli investimenti in azioni e obbligazioni in Italia hanno fatto segnare una diminuzione record di 33 miliardi in marzo, 6 volte quella che era appena un anno fa, il doppio di appena un mese prima. Ma dove vanno questi soldi? Nei porti finanziari ritenuti sicuri? Come la Germania, i dati del sistema di pagamenti europeo sembrerebbero indicare proprio questo. Simone Spezia, Radio 24, il sole 24 ore. Le borse sono in calo, dicevamo, mentre oggi c'è stata l'asta dei BTP, dove il Tesoro, pur con rendimenti in crescita, è riuscito a collocare tutto l'ammontare dei bond, pari nel complesso a 4,5 miliardi di euro. Ma ci aggiorna in diretta Deborah Rosciani, buongiorno. Sì, buongiorno. Come preannunciato, il Tesoro ha venduto titoli con scadenza marzo 2015 per 3 miliardi complessivi, il massimo ammontare prefissato, ma i tassi sono balzati al 5,30% dal 3,91% dell'analoga asta di maggio, segnando un massimo da dicembre. Buona la domanda, ma il di differenziale di rendimento fra titoli di Stato italiani e tedeschi rimane sempre in tensione, questa mattina rivolato sopra i 480 punti base per ritornare poi sui 4,70. Oltre all'asta da 3 miliardi di titoli a 3 anni, il Tesoro ha organizzato anche due aste di BTP in gergo finanziario dette off the run, cioè sostanzialmente sono state riaperti due collocamenti per BTP con scadenza 2019 e 2020. Anche in questo caso è stato collocato tutto l'importo massimo prefissato, 1,5 miliardi. I rendimenti sono risultati rispettivamente del 6,10% e del 6,13%, lievemente inferiori a quelli quotati sul mercato secondario. C'è in tensione anche il differenziale di rendimento fra i bonus spagnoli e il Bund tedesco, siamo sui 550 punti base, e tutto questo si ripercuote in che modo sulla borsa? Stamattina i listini del vecchio continente sono partiti incerti, poi dopo le dichiarazioni di Angela Merkel hanno virato in maniera più decisa verso il basso, adesso si stanno un po' risollevando, sono in calo di circa 0,5 punto Parigi, Francoforte, Londra, Milano invece, che è arrivata a perdere oltre un punto, adesso segna meno 0,28%. Per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Ed è di poco fa la notizia che secondo il bollettino statistico di Banca Italia dedicato alla finanza pubblica, le entrate tributarie nei primi 4 mesi del 2012 si sono attestate a quota 111,295 miliardi di euro, in lievissimo aumento rispetto allo stesso periodo del 2011. Proseguono intanto gli incontri del Premier Monti con i leader europei. Il tema è sempre lo stesso, il salvataggio dell'euro e le misure possibili. Ci aggiorna in diretta Elisabetta Fiorito. Buongiorno Elisabetta. Sì, buongiorno. Primo incontro bilaterale con il neo presidente francese François Hollande per il Premier Mario Monti, che lo riceverà a Palazzo Chigi nel pomeriggio. In serata invece il presidente francese sarà ricevuto al Quirinale dal capo dello Stato Giorgio Napolitano. Forte del Premier, del premio che ha appena ricevuto a Berlino e del rinnovato appoggio della maggioranza sulle politiche economiche, Monti promette che non ci sarà una manovra aggiuntiva, piuttosto per ridurre il debito si inizierà a dismettere il patrimonio pubblico, cessioni sia immobiliari sia mobiliari anche a livello locale. Il Premier poi cerca di frenare le polemiche sul sistema Italia, polemiche ovviamente europee, è fragile, ha aspetti fragili come l'alto debito, dice Monti, ma ha alcuni aspetti solidi come il sistema bancario paragonabile a quello tedesco. Non bisogna creare deficit, ma l'austerità non è sostenibile nel lungo periodo. Sulle dismissioni la Lega Nord si dice subito favorevole, mentre sulla austerità interviene il presidente del Senato Renato Schifani e promette Monti farà proprio le richieste della maggioranza alla cancelliera Angela Merkel per rimuovere le politiche che hanno creato una situazione di recessione. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. E secondo le dichiarazioni del Premier Monti, come vi abbiamo già riferito, per abbattere il debito pubblico attraverso un piano di lungo corso, il governo si prepara a vendere quote di patrimonio pubblico, immobili e partecipazioni. Valeria De Rosa ha raccolto l'opinione di due professori sul perimetro e il possibile gettito di questa operazione. Ugo Arrigo è docente di Scienza delle Finanze alla Bicocca di Milano. Gli immobili possono dare un gettito degli introiti molto più elevati rispetto alle imprese pubbliche, ma le imprese pubbliche hanno un impatto molto maggiore rispetto alle attese dei mercati e quindi possono avere delle conseguenze molto di rilievo molto maggiore. Per quel che riguarda gli immobili, qual è il risultato finale a cui potrebbe aspirare lo Stato? Perché ovviamente poi non tutti gli immobili sono cedibili e non tutti sono appetibili. Non tutti gli immobili sono cedibili perché ovviamente quelli che sono usati direttamente dalle amministrazioni pubbliche forse è più conveniente mantenerli in proprietà anziché privatizzarli e poi riprenderli in locazione, e però molti immobili che sono usati da amministrazioni pubbliche che sono di pregio potrebbero essere ceduti e le amministrazioni pubbliche trasferirsi in immobili più periferici, meno costosi come locazione. La cifra che si può ottenere privatizzando immobili pubblici, le stime convergono tra i 200 e i 300 miliardi di euro, però ovviamente questa cifra arriverà lentamente nel tempo, credo 10-15 anni. Più scettico il professor Gustavo Piga, ordinario di economia politica all'Università Tor Vergata a Roma. Sono due tipi di perimetro, il primo perimetro dove vedo delle criticità è il perimetro temporale. Se pensiamo a raggiungere delle dimensioni, un minimo

Grazie da Andrea Viali. E adesso la vicenda Expo. Dopo il vuoto lasciato dalle dimissioni del sindaco di Milano Giuliano Pisapia dall'incarico di commissario straordinario, l'amministratore delegato Giuseppe Sala smentisce il rischio che salti il progetto, che va avanti anche se i tempi stringono. Sentiamolo al microfono di Anna Marino. Il problema in questo momento in senso pratico non c'è, nel senso che sui primi lavori e sulla prima gara noi abbiamo già chiesto al sindaco di esercitare i poteri e il sindaco è commissario straordinario e l'ha fatto. A fine luglio andremo ad assegnare una seconda gara che tra l'altro sarà la gara più importante, una gara che parte da una base d'asta di 270 milioni e lì di nuovo servirà probabilmente esercitare i poteri, quindi insomma non è un problema urgentissimo, ma un problema che va risolto. Ecco, urgentissimo è invece risolvere chi si occuperà da qui in poi dell'Expo e che destino avrà, secondo lei? No, diciamo, chi si occuperà a livello operativo, ovviamente non credo di poter dire continuerò a essere io, su chi potrà esercitare questi poteri, che è un ruolo diverso, che ovviamente agirà a mia chiamata su quando sarà necessario, è una decisione che verrà presa dal governo. C'è una mancanza di volontà di fare l'evento come ha avuto il dubbio Formigoni? Mi piace scherzare su tante cose, ma su questo proprio credo che ci sia poco da scherzare. Qui abbiamo un impegno col Paese, abbiamo aziende che hanno già con noi firmato dei contratti, abbiamo Paesi che hanno già indicato che metteranno dei soldi, hanno nominato commissari, hanno presentato progetti. Ecco, su queste cose qua chi ha un po' di dignità non deve scherzare. E ora veniamo alla crisi dal punto di vista delle imprese. Come sta reagendo alle difficoltà il settore della moda e del lusso, tradizionalmente uno dei settori più forti del Made in Italy anche all'estero? Se ne sta parlando oggi al quarto Luxury Summit organizzato a Milano dal gruppo 24 Ore. Noi sentiamo che cosa ci ha detto il presidente di Sistema Moda Italia, Michele Tronconi. Decisamente 2011 per la maggior parte, se non tutti i grandi brand, l'anno è andato molto molto bene. E quindi questo ha senz'altro un carattere di spinta positiva verso il 2012, ma il 2012 è un anno di scivolata, le imprese, per quanto grandi, non sono delle isole e purtroppo risentono del contesto in cui operano, e se sono imprese italiane o perlomeno imprese che hanno gli headquarter ancora in Italia, ovviamente risentono dei problemi della nazione, i problemi del contesto. E poi non dimentichiamo che per esportare di più bisogna prima produrre di più, a meno che non si rinunci ad esportare un prodotto veramente made in Italy. Ecco, questo è un settore che opera in termini di catena, di filiera. Possiamo avere un grande brand che in questo momento è molto solido anche finanziariamente, ma dipende in termini di fornitura da tante piccole e medie imprese che magari sono meno solide e che quindi risentono di più della crisi e magari si trovano in difficoltà a produrre quello che serve poi al grande brand per realizzare il suo prodotto finale ed esportarlo in tutto il mondo. E a proposito di imprese, c'è una multinazionale in difficoltà, la Nokia, che annuncia il taglio di 10.000 posti di lavoro entro il 2013. Da azienda leader a marchio in lotta per il rilancio, a colpi di rigore e licenziamenti. È il destino di Nokia, che ha annunciato il taglio di 10.000 posti di lavoro entro il 2013. Nello stesso momento in cui avverte che le perdite del secondo trimestre nel settore della telefonia mobile potrebbero essere più pesanti del previsto. Salgono così a 40.000 i licenziamenti decisi, a partire dal 2010 dal direttore generale Stephen Hillop. Chiuderanno stabilimenti in Finlandia, Germania e Canada e perderanno il posto anche alcuni manager, mentre verrà ceduto il marchio dei cellulari di lusso Vertu. La svolta del destino di Nokia negli smartphones, un settore che ha visto l'azienda finlandese arrancare dietro a Apple e Samsung. Hillop vuole puntare sulla nuova serie Lumia, ma insediare il successo dell'iPhone è impresa disperata. Da quando è sbarcato sul mercato, Nokia ha perso oltre 70 miliardi di euro e non sembra aver giovato l'alleanza con Microsoft. Le azioni Nokia hanno perso più del 70% da quando, lo scorso febbraio, il gruppo ha annunciato l'abbandono del suo software Symbian per passare a Windows Phone. Francesco Riccardi, Radio 24, Sole 24 Ore. Tra le le difficoltà della Nokia alla concorrenza di Samsung, che proprio nei mesi scorsi aveva strappato lo scettro di primo produttore di telefonini al mondo dopo 14 anni. E Samsung adesso allarga i suoi obiettivi, starebbe sviluppando un nuovo servizio di social networking per fare concorrenza a Facebook. Dopo essere diventato il principale produttore di telefonini per numero di pezzi venduti nel mondo, Samsung continua a tentare di sviluppare una propria presenza nel software e nei servizi. Secondo indiscrezioni rilanciate dal Korea Times, l'azienda avrebbe in cantiere una sorta di Facebook, un social network che potrebbe essere integrato nei propri smartphone già dal 2013 per poi espandersi in altri apparecchi targati Samsung, come macchine fotografiche e televisori. Non è una novità che Samsung stia tentando di sviluppare una propria piattaforma social. Un esempio è il servizio Family Story, con cui si possono condividere foto o appuntamenti. Vari motivi spingono in questa direzione, non ultimo la necessità di differenziare la propria gamma di smartphone, il cui successo è in buona parte dovuto al sistema operativo Android, che Google fornisce però ad altre decine di produttori, col rischio che molti telefoni si assomiglino. Ma realizzare un social network non è come produrre telefoni, e anche Apple, con il suo Ping integrato in iTunes, ha finora sostanzialmente fallito il tentativo. Enrico Pagliarini, Radio 24, il Sole 24 Ore. Nuovo mistero in Vaticano, da giorni è irreperibile il responsabile del sistema informatico. Di lui si conosce pochissimo, l'identità è ignota ai più anche all'interno del Vaticano. Di certo si sa che il 36enne, oggi diventato un ingegnere informatico, ha cominciato la sua carriera come hacker. Il Vaticano lo aveva rintracciato proprio dopo un attacco informatico e con grande astuzia, perché dicono fonti ben informate era il migliore sulla piazza, lo ha assunto. Così il giovane hacker è diventato l'ingegnere del Papa, ha creato un sistema di protezione della rete della Santa Sede. E oggi è il solo a sapere come entrare, ne detiene la password d'ingresso, conosce in teoria tutti i contatti, le email interne alla Santa Sede, i codici cifrati e forse i segreti dei corvi. Di lui però da giorni si sono perse le tracce, è irreperibile. Che fine ha fatto? C'è chi pensa al peggio, ma chi lo conosce segue un'altra pista. Da quando è scoppiato il VatiLeaks, l'uomo non si fiderebbe di chi lo ha assunto e per evitare problemi si starebbe tenendo alla larga. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europei di calcio, questa sera alle 18 si gioca Italia-Croazia, ma c'è giorno in diretta Carlo Genta, buongiorno. Buongiorno a voi, resta un unico dubbio nella testa di Cesare Prandelli a pochissime ore da questa partita che vale moltissimo per gli azzurri, secondo impegno europeo, partita da provare a vincere ad ogni costo. Il dubbio è quello che conosciamo da giorni, cioè l'alternativa tra Balotelli e Di Natale in attacco. Con ogni probabilità però, salvo sorprese, l'Italia verrà confermata nella formazione che ha giocato bene e pareggiato contro la Spagna, quindi con De Rossi difensore centrale e con la conferma della coppia offensiva Cassano-Balotelli. Ci sentiamo nelle prossime edizioni del GR per ulteriori aggiornamenti. Grazie a Carlo Genta. Dal calcio al ciclismo, ancora una vicenda di doping che getta nuove ombre su un campione leggendario. Guai in vista per Lance Armstrong. L'agenzia americana antidoping ha aperto una procedura formale nei confronti dell'ex campione che potrebbe costare al ciclista i suoi 7 titoli del Tour de France. L'agenzia sostiene che alcuni test di sangue prelevati ad Armstrong nel 2009 e nel 2010 sono compatibili con manipolazioni sanguigne, incluso l'uso di EPO e trasfusioni. Armstrong respinge le accuse giudicandole prive di fondamento, fatte da testimoni, dice, comprati e pagati o ex dopati come Floyd Landis. E ricorda che nella sua carriera si è sottoposto a 500 test antidoping senza mai risultare positivo. Ma se la denuncia fosse accolta avrebbe l'effetto immediato di bandire Armstrong dalle competizioni di triathlon, specialità in tre distanze, nuoto, corsa e bicicletta, al quale l'atleta si è dedicato dopo l'addio al ciclismo nel 2011. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questo notiziario curato da Alessandra Scaglioni. Un ringraziamento in regia Paolo Corleoni, un saluto e un augurio di buon pomeriggio da Adriana Fracchia. GR 24 torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.